Ho una domanda da farvi. Perché credere in Dio? In più, modo più personale, perché tu credi in Dio? E se avessimo tempo e un po' di caffè, mi diresti la tua storia. E ci sono tante risposte, no? Però alla fine una sola basta. Magari mi puoi dire, ho visto Dio fare questo, o ho visto Dio fare quello, ho una testimonianza, una storia, il che è bellissimo ed è importante. E Dio continua a fare oggi quello che ha fatto prima. Però se conoscete dei musulmani o delle persone che credono in altre religioni, tanti di loro hanno esperienze non simili, ma esperienze che per loro sono prove del fatto che la loro fede sia vera. Quindi alla fine dei conti l'unica cosa che basta, l'unica cosa che importa per rispondere alla domanda perché credi in Dio è vero o no? È vero o no? Paolo lo dice così, se non mi credete, in 1 Corinzi 15, 17. E se Cristo non è stato risuscitato, cioè se non è vero, cosa dice? Lo sapete? Vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Quindi pensate, se Gesù non è risorto dai morti, essere qua è bello, però è vano. Quindi alla fine dei conti dobbiamo sempre tornare al punto, è vero quello che ci dice la Bibbia, è vero la storia di Gesù. E vi incoraggio ancora, sull'app troverete, perché è il mio percorso, io avevo tante domande sulla risurrezione e tutto il resto. Quindi se andate sull'app, se avete delle domande anche voi, abbiamo almeno 4 discorsi, lezioni e dibattiti sull'esistenza di Dio, vi incoraggio a guardarli, tutti in italiano. Quindi se Gesù non è risorto, se non è vero, stiamo perdendo il nostro tempo. Se invece è vero, non c'è nient'altro che possiamo fare che sia più importante che seguire Lui. Amen? Il problema però è che tanti di noi, e non vi sto accusando perché mi metto in mezzo, vediamo il cristianesimo un po' così, è una cosa che crediamo adesso per qualcosa che succederà dopo. Quindi crediamo adesso, accettiamo Gesù adesso, facciamo delle cose adesso perché dopo saremo con Lui, con la vita eterna, in paradiso per sempre. Il che è vero, ma non è tutto. Non dobbiamo solo guardare il domani, c'è un oggi che Dio vuole che noi viviamo. Quindi se sei cristiano qua oggi voglio ricordarti che Dio non ti dà il permesso di semplicemente vivere. Se sei cristiano, se ti chiami cristiano, vivere, sopravvivere, non ti è permesso. Lui ti ha chiamato per molto di più. E se invece non credi, però magari se sei onesto o onesta, mi diresti, ci deve essere qualcosa di più. Non so cos'è, non so se è Gesù, non so cosa sia, però credo ci sia qualcosa di più. Sono qua a dirti che c'è qualcosa di più ed è disponibile anche a te. E non devi cambiare tutta la tua vita prima di ricevere Lui. È il contrario. Quindi questo può essere anche tuo. Quindi se avete Giovanni 10:10, leggeremo dal 10. Faremo così, è da un po' che sono in America, quindi vi dico un po' quello che faremo. E poi se andate a dormire, poi potete tornare quando volete. Leggeremo Giovanni 10, dal 10 al 16. E poi andremo versetto per versetto, torneremo e guarderemo delle cose. Ok? Giovanni 10:10, ah c'è anche qua, grazie ragazzi. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto, parlando di Gesù, perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, al quale non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere, ed essi ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge. Un solo pastore. Questo passaggio lo vedremo in 4 punti. Il primo è il versetto 10. Quindi se volete lasciarlo lì è perfetto. Io l'ho intitolato Più che sopravvivenza. Leggiamolo. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare, distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Allora, questo versetto spesso viene insegnato da quelli che credono nel Vangelo della benedizione, della ricchezza, che vuol dire se sei povero non è la volontà di Dio. Il che purtroppo non è vero. Leggi la Bibbia, la maggior parte delle persone che seguivano Gesù hanno avuto una vita difficilissima. Quindi non crediamo alla bugia che credere in Gesù sia questa vita perfetta. Lui ha avuto questo incontro, no? In cui i seguaci di Giovanni il Battista sono venuti da lui e gli hanno chiesto perché Giovanni il Battista era in prigione. E vi ricordate, Giovanni il Battista era cosa di Gesù? Era suo cugino. Quindi Gesù, figlio di Dio, aveva suo cugino in prigione e i seguaci di Giovanni il Battista vengono da lui e dicono: allora, tu sei il Messia o dobbiamo aspettare un altro? Che è quello che facciamo noi quando siamo in difficoltà. Se ci si guardate il testo, non dice tu andrai a prendere tuo cugino in prigione o no? No, loro rispondono, loro gli fanno la domanda: ma tu sei Dio o no? Ed è la stessa cosa che facciamo noi, se siamo onesti. Quando la vita è dura e siamo stanchi di pregare, andiamo a Dio e diciamo: ma sei capace di cambiare la situazione? Non vuoi? Cos'è che sta succedendo? E Gesù risponde: di a lui quello che sta succedendo intorno. I malati adesso sono guariti, i ciechi vedono, i muti riescono a parlare. In poche parole, lui è in difficoltà, torna da lui e dice agli altri: io sto aiutando tutti gli altri, ma non aiuterà lui, in poche parole. E loro vanno via, è una risposta molto profonda. Loro vanno via e Gesù guarda i suoi discepoli e non so se vi ricordate cosa dice. Da quelli nati da donna, e traduco dall'inglese quindi se non è perfetto scusatemi, da quelli nati da donna, cioè tutti noi, non so se conoscete qualcuno non nato da donna, da quelli nati da donna non ce n'è neanche uno più grande di Giovanni il Battista. E sappiamo la fine, no? Quindi non cadiamo nell'errore di credere che se crediamo in Dio la nostra vita sarà facile, perché ci sono state persone con tutta onestà che hanno vissuto vite molto più vicine a lui di noi, che hanno dovuto pagare un prezzo. Quindi questo, non so che non sembra un ringraziamento, un incoraggiamento, però alla fine è quello che vi ho detto, è vero. Quindi la vita l'abbiano in abbondanza. La parola vita qua usa la parola zoe, che vuol dire sia la vita vera, sia la vita fisica, ma anche quella spirituale. Non ha usato la vita, la parola bios, no? Che è quella naturale, ho fame, ho sete, ho sonno. Però non ha neanche usato psiche, che è quella parola più dell'anima, più delle cose spirituali. Ha usato tutte e due. Il che vuol dire che questa vita in abbondanza che Dio ci vuole dare è per la vita eterna, ma è anche oggi. Quindi io ti chiedo, come stai vivendo la vita oggi? Come stai vivendo la vita oggi? Se tu guardi la tua vita, è noiosa, è senza avventura per il Signore, com'è? E quello puoi essere onesto con te stesso, com'è? E io per molto tempo ho vissuto così. Quindi se il tuo cristianesimo è noioso, sicuro e prevedibile, sono qui a dirti che allora non hai il cristianesimo vero. Hai un cristianesimo fatto in Cina, come diciamo in America. Se la tua vita è noiosa, sicura e prevedibile, allora non stai vivendo la vita che Dio ti vuole dare. Perché deve coinvolgere tutti noi. Lo dice in Deuteronomio e poi lo ridice Marco, no? Quello sapete a memoria. Ama dunque il Signore, il Dio tuo, con tutta l'anima, cuore, mente e la forza. Tutto. E se sono onesto, tutti i giorni amo Dio con tutta la mia forza, con tutta la mia mente, con tutta... È difficile, però è questa la vita che Dio ci vuole dare. Una vita vera che coinvolge tutti gli aspetti della nostra vita. Non è che accada la domenica o mercoledì se c'è lo studio biblico, ma tutti i giorni. Tutti i giorni. E vi volevo dire una testimonianza veloce. Quando ero a Parma, avevo appena finito il classico e studiare mi è sempre piaciuto molto. Però non volevo andare in università e non sapevo perché. È come se il Signore amavo Parma, vivevo a Reggio Emilia, sempre volevo vivere a Parma. Mi sono finalmente trasferito a Parma. E poi è come se il Signore avesse spento le luci della città. Tutto quello che un giorno mi piaceva è come se non ci fosse più. Ed è quello che il Signore mi ha messo nel cuore per dire, mi ha fatto sentirmi non a mio agio, per portarmi a qualcosa che lui aveva per me. Io mi ricordo, ero in un caffè, ero in un bar a Parma con mia sorella, e le dicevo, era una preghiera che avevo però condiviso con lei, perché ero molto, facevo tante cose in chiesa con la lode e il resto, e le ho detto, io sono stanco di dire agli altri la testimonianza e le cose grandi che Dio ha fatto nella vita di altre persone. Sono stanco. Posso raccontare quello che ha fatto nella vita di Luciano, che era uno che era ubriaco, Dio l'ha cambiato, è venuto, è una persona fantastica, però io voglio la mia storia. E vi dico, se avete mai fatto questa preghiera, sapete di cosa sto parlando. E se non avete fatto questa preghiera, vi do un incoraggiamento, però state attenti, perché quando chiedete a Dio che volete una storia con Lui, Lui ve la darà. Però non sarà da casa, vi porterà da qualche parte. Non fisicamente, a me è andata fisicamente, però porterà da una parte in cui le tue forze non ti basteranno. A me è una storia lunga, però i miei genitori sono divorziati quando avevo 5 anni e i soldi erano... Sono sempre cresciuto con l'idea che i soldi non abbiamo soldi, non avremo mai soldi, nulla basta, e abbiamo fatto fatica. E non mi piaceva mai, ancora non mi piace mai accettare niente da nessuno. E sono andato negli Stati Uniti con 200 euro, e non so se sapete quanto costi un'università negli Stati Uniti. Con 200 euro che sono andati via velocemente, sono andato a vivere con questa coppia di missionari e noi abbiamo detto, ok, cerchiamo di metterti in università, cerchiamo di far sì che tu studi qua, però costava 30.000 euro, 30.000 dollari, e io avevo a quel punto 100. E vi dico, il Signore ha aperto porte, ho trovato una borsa di studio e una persona, una coppia di una chiesa in cui andavo in quell'epoca, mi ha dato 10.000 dollari. Non avevo mai visto così tanti soldi su un assegno. E non mi hanno mai chiesto niente, non mi chiedevano come stessi andando, non volevano niente in cambio. Hanno sentito la mia storia e il Signore gli ha detto, aiutalo. Però è una benedizione incredibile. Se io fossi nelle tue qua a sedermi, direi, ok, vorrei che capitasse a me. E lo pensavo anch'io. Però ti dico, anche quando capita a te, ci sono cose dentro di voi che devono morire, perché Dio non ha dato i soldi a me, ha usato una persona, e quando me li hanno dato, cosa ho dovuto fare? Accettare. E in quel periodo lì non sapevo se volessero qualcosa in cambio, non sapevo neanche se l'avessero fatto l'anno successivo, l'università dura più di un anno, e il Signore ha aperto tante, tante porte. Quindi io vi dico e vi incoraggio, se la vostra vita cristiana sembra un po' noiosa adesso, c'è di più. Non siamo qua solo per aspettare l'eternità, c'è di più. E ricordatevi, è l'ultimo punto alla fine che diremo, è importante che ascoltiate il messaggio di Gesù e la sua richiesta di vivere una vita vera, una vita piena, perché non si tratta di voi. Quando Dio ha chiamato te, aveva qualcun altro al di là di te in mente. E se tu ti fermi, chi arriverà a quella persona? Il secondo punto, dal versetto 11 al 13. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario non è pastore, al quale non appartengono le pecore. Vede venire il lupo e abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è mercenario e non si cura delle pecore. Cosa ci dice questo versetto? Che parla della vita in abbondanza, della vita vera. Ci dice, vede venire il lupo, cioè il pericolo. L'abbiamo visto nel mimo, no? È stato bellissimo. La vita è dura e non ve lo devo dire io. Ci sono storie che, se io ascoltassi la tua storia, magari ti guarderei e direi, non so come fai a credere in Dio, è dura. Se Dio è amore, perché sono successe certe cose con la mia famiglia? Se Dio è onnipotente, perché non riesco a vincere questo o quest'altro? Però vi ricordate che è anche un'altra bugia che sentiamo spesso, è dire che il Signore ci ha promesso una vita facile. Il contrario. Trovatemi un versetto in cui dice che la vita sarà facile. Ascoltiamo i Salmi 23. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male. Mi piace la traduzione in inglese. Quando anche camminassi attraverso la valle, Dio non ti porta sopra, non ti porta sotto, non ti fa fare un altro giro. Lui ti porta attraverso la valle. Però cosa dice? Io non temerei alcun male perché sono forte. No, no, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Vedete, la stessa immagine del pastore che è in tutta la Bibbia. E poi in Giovanni 16,33, se avete ancora dubbi, questo l'ha detto Gesù. Nel mondo avete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Quindi ricordatevi, la vita sarà difficile. E in America in particolare sentiamo spesso, la fede, anche qua con gli tanti atei dicono, voi credete in Dio perché siete deboli, avete bisogno di qualcosa che vi aiuti un po', no? Io sono coraggioso, quindi io riesco ad affrontare la vita così com'è. No, no, no, questo non è il cristianesimo. Il cristianesimo, no, ancora, non seguiamo Dio perché la nostra vita sia facile, lo seguiamo perché Lui è vero. Amen. Lui non ci ha mai promesso che sarebbe stata facile, ma ci ha promesso che sarebbe stato con Lui, con noi. E vi dico, anche se ho solo 3 minuti, andrò un po' oltre se va bene. Per quanto riguarda le difficoltà, e ancora se avessimo più tempo chiederei la tua storia, però 3 anni fa, mio nipote di 20 anni è stato diagnosticato col cancro e in un anno se n'è andato. E lo so già, non sapevo prima, che il cancro fosse una cosa molto brutta, orribile, però non è. Non sai cosa sia il cancro finché qualcuno molto vicino a te non ci passa. Perché io credevo fosse una malattia, cioè alla fine lui non se n'è solo andato, ma ha sofferto tantissimo. E so che anche voi avete delle storie così, che sia il cancro, che sia qualcos'altro. Però soprattutto quando si tratta qualcosa di salute, perché ci facciamo tutte cose nella nostra mente, no? Ok, Signore, non mi devi far ricco, non mi devi far bello, non mi devi far... Però la salute, cioè cosa ha fatto lui? 20 anni. E avete anche voi, immagino, una storia così. Però vi dico, ci sono domande che ho, sicuramente. E spesso quando ci stai passando per quel dolore, la risposta che viene data, e capisco perché venga data, ma la risposta che più spesso viene data è forse la risposta che più non aiuti. E la risposta è questa: Dio ha un proposito. Il che è vero, ma in quel momento lì, se siamo onesti, non ti interessa nemmeno che proposito può avere. Però se ci fermiamo, e voi lo riuscite a fare meglio adesso perché non conoscete mio nipote, non è famiglia per voi, quindi potete dire, ok, forse non capisci adesso, però dopo lo capirai. Il fatto che tu non capisca non vuol dire che non sia vero. Io la quantistica, meccanica, non la capisco, non vuol dire che non sia vera. Dio sì ha un proposito, e anche se è dura, anche se è difficile, parlavo con una delle mie sorelle che cammina col Signore, però ha forse più, e lo direbbe lei, forse più dubbi di me a questo punto. E io gli ho chiesto, ok, mettiamo Dio fuori, Dio non c'è più. Lui sarebbe tornato? Mio nipote sarebbe con noi? No. Quindi alla fine ci comportiamo esattamente come i seguaci di Giovanni il Battista. Siamo arrabbiati perché Dio non vuole fare la cosa buona, non è una cosa cattiva, la cosa buona che gli stiamo chiedendo, però quando andiamo da Lui, non è quello che chiediamo, iniziamo a dubitare. Ma sei tu Dio davvero? Perché se notate, mia sorella non è andata a dire, perché non l'hai guarito? Ha detto, ma sei tu Dio? Sei capace di guarire? Quindi se stai provando qualcosa anche di simile, sappi, non sei solo. E noi siamo andati a Roma, no? So che c'è il cattolicesimo e tutto il resto, però una cosa che mi piace molto ogni volta che sono a Roma è sapere che questo messaggio che è stato custodito a delle persone senza educazione è sopravvissuto più di 2000 anni. E Gesù l'ha detto, neanche not even the gates of hell will defeat it. No, neanche la morte riuscirà a sconfiggere questo messaggio. Noi siamo parte di questo messaggio. E mi ricordo quando ero in Italia, una volta sono andato a questa, parlavo con lei, sono andato a questa Mission Net, penso fosse in Germania per il Capodanno, è stata bellissima, tantissimi giovani, e io non avevo mai visto così tanti giovani che credevano in Dio. Ero di una chiesa di forse 100 persone. E io, ah, è possibile, non sono l'unico. Al classico più di 1000 persone ero l'unico credente che conoscevo. Quindi vi dico, le cose che state affrontando, che stiamo affrontando, non fuggite da queste domande. E ricordatevi, non siete i primi, non sarete gli ultimi. Soprattutto noi giovani, è parte dell'essere giovane, no? Crediamo che le domande che abbiamo siano state nate con noi. Abbiamo un po' quella presunzione che la vita ha un modo di spegnere. Però ricordatevi, ci sono tante risorse, tante persone che hanno passato quello che stai passando tu. Però vi incoraggio tanto, quando siete tentati perché non capite qualcosa che sta succedendo intorno a voi, non cambiate la vostra teologia per sentire un po' di sollievo. Andate in profondità, perché il messaggio di Gesù, è per quello che ho chiamato la nostra app Vita Vera, perché uno, voglio che sia quello che dice Gesù, che sia abbondante, che sia vera, vivi la vita vera, ma anche che la vita va vissuta, la vita reale, non quella, ah, io sono credente la domenica e poi durante la settimana faccio un po' quello che voglio. No, la vita reale, con i tuoi problemi, portali a Lui. Portali a Lui. Punto 3, versetto 14-15. Sto quasi finendo. L'identità assoluta. Io sono il buon pastore e conosco le mie conoscono me, come il Padre mi conosce, io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Wow, Dio dice che conosce te come il Padre conosce Lui. Viviamo in un mondo in cui l'identità è forse la cosa che davamo per scontato, però l'identità, stiamo tutti cercando l'identità. Pensate un po' ai gruppi che avete. Magari frequentate certi gruppi, non perché davvero vi piacciono quelle persone lì, ma magari dite, io con loro posso essere me stesso. E a volte sono i gruppi, niente a che fare con la chiesa, a me piace il tennis, vado col tennis perché lì sono me stesso. Però ricordatevi, l'identità assoluta, solo Dio ce la può dare. E ricordatevi anche che l'identità è quasi come l'identità vera. Tu non ti danno l'identità alla fine della tua vita, ti danno all'inizio. E quando ti danno il certificato di nascita, no? Non è perché sei degno di essere il figlio dei tuoi genitori, è perché lo sei di sangue. E anche noi con Gesù. Non siamo mai chiamati figli perché siamo degni. Siamo chiamati figli perché siamo stati nati da Lui. L'identità viene dalla nascita, non da quanto sei degno. Quindi non devi fingere, non devi sistemare la tua vita per essere accettato. E questo mi piace molto. Ci sono tante chiese in America che dicono noi siamo, diamo il benvenuto a tutti, tutti sono i benvenuti e lo fate anche voi. Secondo me è la cosa giusta e bellissima. Però questa frase mi piace molto. Vieni così come sei, ma non rimani così come sei. Amen? Perché se noi fossimo perfetti, non avremmo bisogno di Dio. Vieni come sei, non sistemare la tua vita, vieni come sei, ma sappi che se rimani vicino a Gesù, uscirai cambiato. L'ultimo punto, una vita da condividere. Versetto 16. Ho anche altre pecore, che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Ho anche altre pecore. Cioè, uno dei motivi per cui devi vivere questa vita piena, questa vita vera, più che sopravvivere, è perché il piano di Dio non finisce con te. Il piano di Dio è una di quelle cose che è individuale, ma non è individualistico. Dio ha un piano per te, ma non vuol dire che non abbia un piano per Lui. E Dio ha un piano per te, ma non vuol dire che non abbia un piano per me. Quindi Lui ti conosce, ma anche vuole usarti, perché ancora Lui non vuole che questa vita sia noiosa e monotona. Quando segui Gesù, la tua vita diventa parte di una storia molto più grande. Quindi per concludere abbiamo visto 4 punti in Giovanni 10, 10, 16. Sopravvivere non basta, perché Gesù cambia come viviamo ora. Due, la vita vera vuol dire che ci saranno difficoltà, ma non saremo mai soli. Avere vita vera vuol dire che abbiamo identità in Dio dall'inizio, non alla fine. È un prerequisito, non è che alla fine viene dato come un premio. E vita vera vuol dire che questo messaggio va condiviso. Se hai trovato la vita vera, è come se... Noi lo chiediamo tutti quando siamo quattro, conoscete un ristorante buono? Se conoscete un ristorante buono, condividetelo, no? E con Dio è anche così. E so che è difficile perché la gente è chiusa, lo capisco, però la testimonianza che è stata data prima, mi ricordo ancora il liceo, forse ci sono stati 4 anni di amicizia prima che alcuni dei miei amici chiedessero ma tu non sei cattolico? Per 4 anni non ne volevo saper parlare. Sentir dire, quindi abbiate pazienza. Quindi per finire vi voglio chiedere, anzi chiedo a te individualmente, stai vivendo questa vita vera? Se fossi solo tu da solo a dire ok, sto vivendo questa vita vera? O magari sei qua e chiedi come posso avere questa vita vera? E il versetto del nostro ministerio racchiude questo perfettamente, non perché l'abbiamo scelto noi, ma perché Giovanni l'ha messo ispirato dallo Spirito in modo perfetto. Prima Giovanni 5,12. Come posso avere questa vita vera? Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. È semplice. Hai il Figlio, hai la vita. Chi non ha il Figlio non ha la vita. E anche qua la parola vita ancora non usa quella parola bios che di solito è giusto mangiare, bere, cose semplici, la vita di adesso, ma non usa neanche solo quella parola per la vita del domani. Usa una che può per tutti. Come lo usiamo noi? Come va la vita? Non dici ora o domani, dici in generale. Quindi se hai il Figlio hai la vita, se non hai il Figlio non hai la vita. Quindi la domanda che ci dobbiamo fare è: tu hai il Figlio? Conosci il Figlio di Dio? E in un posto così io mi immagino almeno 3 gruppi di persone. Quelli che sono credenti e, come dice Paolo, il primo amore, no? Faccio tutto, sono qua lunedì, martedì, sono qua più di Mirko. Quei cristiani, ci sono quelli tra di voi. Ed è una benedizione. Credetemi, una chiesa senza di quelli non andrebbe mai da nessuna parte. Magari ci sono invece quelli che sono cristiani da molto, che magari da molti, molti anni. Conoscete la Bibbia molto meglio di me e magari dovreste essere voi a predicare qua e non io. Però una cosa che ho notato è che di solito quanto più segui Dio, perché la vita e la Chiesa è strutturata in un certo modo, hai sempre meno opportunità. Non so come sia qua, però in America quelli che sono cristiani da più tempo, magari hanno una certa età, si vede che fanno sempre di meno e spesso non è perché vogliano fare di meno, ma perché non c'è spazio, lo fanno tutti i giovani, però vi incoraggio, questa vita vera ancora non è solo per domani, è per ora e non deve finire. Voi avete l'esperienza che non c'è nessun libro che ci può dare. Io incoraggio tutte le chiese in cui vado, create un gruppo in cui ci sono anziani, e magari voi lo fate già, anziani, giovani, tipo un mentorship, in cui i ragazzi che hanno domande o tutto il resto ascoltano la vostra storia, perché voi avete vissuto delle cose che noi non abbiamo vissute. Come ho detto prima, voi avete visto dei problemi che noi vedremo in futuro e in futuro crederemo che siano problemi nuovi a noi. Quindi credenti che sono qua, che sono incoraggiati, credenti che magari dicono io vorrei fare di più, ma non lo so, sono un po' stanco, è dura seguire Gesù per tutti questi anni. O magari sei qua e non conosci, o dici, ok, ho sentito parlare di Gesù, so chi sia, però non so se è per me, non so se è vero. E se sono onesto, mi chiederei anche, non so se lui mi vorrebbe se sapesse tutto quello che ho, tutto quello che ho fatto, tutto quello che sono. Però vi dico, 700 anni prima di Gesù, Isaia usa questa stessa immagine delle pecore e del pastore e davvero parla di cosa dobbiamo fare per trovare questo Figlio. Quindi vorrei concludere con Isaia 53. Se avete le vostre Bibbie, tanto è famoso, però leggeremo insieme. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Versetto più famoso, quello che mi piace sempre. Mi ricorda la canzone Ehi morì ogni volta che leggo. Tuttavia erano le nostre, leggiamolo insieme, tuttavia erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare, non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Ecco quello che Gesù ha fatto per te. Ecco quello che Gesù ha fatto per te, per te, per te, per te, per te, per te che guardi online e per me. Non è una cosa che ha fatto per tutto il mondo, ma aveva in mente te quando l'ha fatto. E l'ultimo versetto sempre mi colpisce molto. Finisce, egli non aprì la bocca. E poteva difendersi, no? Aveva tutte le argomentazioni del mondo. Non era colpevole. Però lui dice, non aprirò la bocca. E secondo me, non lo saprò finché non saremo con Dio, secondo me lui non aprì la bocca per difendersi, per far sì che io e te potessimo aprire la nostra bocca per confessare che Gesù è Signore. Gesù non aprì la bocca quando poteva difendersi per far sì che io e te potessimo adorarlo e confessare con la nostra bocca. Cosa dice Paolo? Se credete nel vostro cuore che Gesù è Signore e confessate con la vostra bocca, sarete cosa? Salvati. Quindi Chiesa, vi incoraggio. Se non conoscete Gesù, non c'è niente che sarà più importante di conoscerlo. Se lo conoscete, continuate con lui, anche se non è facile. E non credete alla bugia che sarà facile. Quelle sono bugie di persone che sono lì a guadagnare dei soldi per darti delle bugie. E se magari sei cristiano da un po' e sei un po' stanco, chiedi a Dio, Signore, io voglio ancora questa vita vera, mi ricordo cosa fosse, la voglio ancora, cosa vuoi da me in questa stagione della mia vita? Non lasciare che la Chiesa e che i giovani scoprano delle cose per conto loro. Aiutateli. E giovani, siate aperti. Siate aperti. Preghiamo. Padre, grazie davvero per l'opportunità che abbiamo di ascoltare la Tua parola. Grazie per come sei il buon pastore. Ti prendi cura delle pecore, siamo tuoi. Tu sei morto per noi, per darci vita eterna, per perdonarci dai nostri peccati, non dagli nostri errori. Non è semplice così, ma dai nostri peccati. Non siamo solo persone che fanno cose sbagliate. Il peccato non è una cosa sbagliata, il peccato è fare qualcosa contro di te. È grave. E tu hai pagato il prezzo. È gratuito per noi perché l'hai pagato tu. Signore, ti chiediamo davvero di aiutarci ad avere questa vita vera adesso e a vivere guardando in futuro, un giorno in cui saremo con te. Io ti chiedo, Padre, per quelli che sono qua, che sono credenti e vogliono seguire te, io chiedo, Signore, che tu sia il buon pastore, che tu li aiuti a capire che c'è di più di quello che stanno vivendo, c'è di più di quello che credono, di vivere una vita in abbondanza, una vita che sa che la vita sarà dura, ma che sei con noi, una vita che ci dà identità e una vita che ci porta a parlare agli altri di te. Non vogliamo che questo messaggio finisca con noi, Signore. Chiedo a quelli che sono qua, che sono credenti da tanto, che hanno tanto da insegnarci, Signore, ma che magari sono stanchi, magari non sanno cosa fare, non trovano spazio. Signore, tu sei il Dio della creatività. Aiutali, aiutali a trovare qualcosa. Aiutali a trovare qualcuno, come Tony ha trovato me e ha investito su di me. E Signore, per quelli che sono qua, che magari non ti conoscono o non sono pronti a dire io sono un seguace di Gesù, rivelati a Lui, a loro. Signore, ancora, l'unico motivo per seguirti non è quello che puoi fare, non è quello che potresti darci, ma è quello che hai fatto, quello che hai fatto sulla croce. Tutto il resto è bonus, tutto il resto è extra. Noi ti amiamo, Signore, e sappiamo che c'è solo un nome che dobbiamo adorare. Il tuo nome, Signore, è stupendo, il tuo nome è bellissimo, il tuo nome è potente. Ti ringraziamo, Signore, diamo questo tempo a te, nel nome di Gesù.